Quindi una cosa specifica rispetto alla battaglia e poi una cosa un po' più complessiva rispetto alle pubblicazioni antifasciste durante il periodo della guerra. Allora, come si è detto, alle 7-8 la mattina viene spugnata la manifattura tabacchi, e i nazifascisti scappano lungo queste due direttrici, destra e sinistra, Terzolle e Mugnone, e qui, proprio sul ponte di mezzo, cercano di contrastare l'avanzata e piazzano una batteria di mitragliatrici e sostanzialmente verso le 10, l'11 la mattina, perché tutto si svolge abbastanza convulsamente come succede spesso in queste situazioni e in un raggio di tempo veramente, veramente ristretto. E quindi dopo questa fuga si piazzano qui, ma dopo pochissimo tempo vengono completamente travolti e continuano la loro fuga verso da una parte appunto verso via Terzolle e dall'altra parte verso via le Corsia. C'è da considerare che tutta la parte della città, diciamo i quartieri a nord che rimangono nelle mani dei nazifascisti, sono soggetti a continui rastrellamenti, in particolare nella zona di Castello, del Sodo e di Rifredi, e a sua volta in particolare in via delle Panche e in via delle Montalve, soprattutto perché quella era la zona da cui i partigiani rimasti tagliati fuori, diciamo, dalla linea del fronte, cioè che non erano dalla parte più al sud della città e che invece erano fin dall'inizio del 40, fin dalla fine 43-44 su Monte Morello e tutte le Calvana, insomma tutte le zone a nord della città, non riuscivano ad arrivare in città, e appunto nel momento in cui cercavano di penetrare in città utilizzavano questi percorsi, diciamo, questi sentieri che scendevano appunto nella zona di Rifredi di Astello, in particolare quello di via delle Montalve, per chi conosce la zona è quella accanto alla Seves, che va direttamente su nella collina. Da quando inizia la lotta e l'occupazione della Galileo nel 44, nel marzo del 44, si aumentano, diciamo, i fogli clandestini, i volantini che incitano all'iniziativa antifascista. Praticamente lo Stato, il governo mussoliniano, fa una legge sulla stampa che dice che i direttori, chi dirige, chi scrive, chi stampa un giornale deve essere autorizzato dal procuratore sotto il prefetto. Quindi naturalmente la stampa diviene completamente sotto il regime e automaticamente tutti i giornali e gli scritti antifascisti diventano clandestini. Ma in realtà durante tutto il periodo, da quando Mussolini ha preso il potere, la comunicazione per far capire alle persone che non c'era soltanto quella voce ma un'altra continua per tutta la durata del regime. Non, all'inizio con le scritte sui muri, naturalmente, poi con fogliettini scritti a mano e attaccati, e poi via via che passava il tempo con più possibilità. Già a Firenze, già a gennaio del 43, ricominciano i primi giornali ricominciano a uscire, per esempio Italia Libera di Giustizia e Libertà riprende a uscire, Umanità Nova e Azione Comunista uguale, che Azione Comunista era in via del Palazzo Bruciato, quindi faceva i giornali con un quartiere che era solo per metà liberato. Infatti la situazione della stamperia era questa, cioè con i partigiani che avevano le mitragliatrici sì, alla porta, di modo che se arrivava qualcuno l'ammazzavano. Quello dove era detto, scusa? In via del Palazzo Bruciato. Ma le cose erano di tutti i tipi, naturalmente anche semplici fogliettini attaccati così, oppure delle cose tipo questi qui, che ci sono ancora molte pallottole. Questo si conclude con nelle rivoltelle del popolo ci sono ancora molte pallottole, attenzione. A un certo punto, con quando comincia la battaglia, cominciano anche i volantini che nel 43 l'esercito nazista fa un comunicato in cui dice che chiunque sia trovato con un foglio di questi clandestini verrà ucciso. Quindi capite che la situazione insomma era abbastanza pesante, tant'è che i tipografi avevano un po' paura che i nazisti riconoscessero i caratteri dei giornali clandestini da quelli invece che loro stampavano regolarmente, e quindi a questi partigiani o comunque antifascisti gli toccò andare a cercare i caratteri dappertutto. C'è la storia che per esempio presero 3 secchi di caratteri usati da Prato per portarli qui per stampare i giornali e così via. Poi via via che passava il tempo cominciarono invece le cose più specifiche, tipo ci sono i volantini dei lavoratori che davano nelle fabbriche, che incitavano a sabotare, perché le fabbriche, tipo anche la Pignone, era stata convertita in fabbrica di armi, quindi erano volantini che invitavano a sabotare le armi perché dovevano andare ai tedeschi. Fammi vedere altro, perché ce ne sono altre. E poi naturalmente c'è quelli famosi tipo tipo questa qui, per esempio, anche questa sono, vedi, che scrivono che gli operai furono deportati in Germania. Questa è per la liberazione, ma c'era una proprio sugli operai, non so chi ce l'ha. Ah, forse è quella lì. Questa qui è proprio le officine più importanti sono scese in lotta impugnante l'arma e lo sciopero, che fu una cosa incredibile, perché sotto l'occupazione fu proclamato uno sciopero generale con delle percentuali altissime di adesione. Questa cosa della comunicazione e di far capire che c'era un'altra voce, poi cominciarono anche le brigate, i giornali delle brigate partigiane, così era importante per dare una cosa che ci fosse altro oltre alla dittatura. Ma parecchie volte erano didascalici, perché per esempio i giovani nel 44 avevano fatto tutta la scuola intera sotto il regime, quindi una scuola che era basata sul culto del guerriero, del capo, capito? Quindi smontare anche questa mentalità attraverso le cose didascaliche, oggi a noi se li leggiamo ci fanno ridere, però effettivamente in quel momento avevano un senso. Basta. Dove si va?